mare in cielo è tutto nuovo, tutto nuovo. Bianco e nero si colora, pensa che fortuna, è tutto nuovo, è tutto nuovo. Carta e zucchero filato, tra le giostre un ubriaco, con un palloncino in mano se ne va. Cuore da montagne russe, siamo appesi a delle stelle, ma poi quando si scende, e come si fa? È tutto Luna Park, Luna Park, Luna Park, questo maledetto Luna Park, Luna Park, via di qua, che non mi diverto, si va su, si va giù, si va che si va, a Luna Park. In questo mondo alieno è tutto nuovo, tutto nuovo. Fra fantasmi in gomma piuma, anime in vetrina, il tuo veleno troppo buono. Dammi un bacio che mi sazia, che l'amore non si avanza, egoista oppure giusta e chi lo sa. Nella casa degli specchi siamo tutti un po' bugiardi, così il boia mostra i denti e dice prego mamma. È tutto Luna Park, Luna Park, Luna Park, questo maledetto Luna Park, Luna Park, via di qua, che non mi diverto, si va su, si va giù, si va che si va, a Luna Park, Luna Park, Luna Park, passo e non commento. Su si va giù, si va dove non si tocca, perché il tempo un lecca lecca, e ho già rotto i miei collan. Si va su, si va giù, con la vecchia filastrocca, cenerentola e carrozza, e l'alba arriverà.